la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci in diretta, Oscar Giannino vi saluta dagli studi di Milano di Radio 24, 16:33 primi e ne abbiamo fino a 55, come sempre con l'interruzione di un minuto di informazione sulla strada verso 45-46. Vi dico subito di che si tratta e vi faccio una domanda, perché oggi parliamo di un libro che io vi consiglio molto. È un libro che vi consiglio molto qualunque sia la vostra opinione su Euro sì o Euro no. È un dibattito che io prevedo con quello che avverrà sulla Grecia entro il 29 di questo mese in Italia. Non solo è già molto acceso il dibattito, ma credo che decollerà ulteriormente. Io non sono di quelli convinto che l'Italia sia al riparo da effetti nel caso in cui l'Unione Europea, su posizioni rispetto alle quali l'Italia ha dato una delega in bianco, da quello che ho capito. Io non ho capito perché l'Italia non abbia una sua posizione espressa con chiarezza sulla vicenda greca, ma comunque la mia opinione è che se si va a ciò di cui ci sono tutte le premesse dopo sei mesi di finta trattativa, cioè un'uscita della Grecia, vedremo poi tecnicamente come predisposta, io credo che inevitabilmente anche da noi questo dibattito ridecollerà, perché ci sono parti politiche e molti milioni di italiani che sono convinti che sia la cosa più giusta da fare tornare alla lira, alla sovranità monetaria. Ci sono economisti di vasto seguito che hanno oramai un seguito anche politico nella destra italiana, il professor Bagnai, il professor Borghi, che scrivono da anni le ragioni per cui è meglio superare questa moneta imperfetta e senza politica che è l'euro. Per tutto questo io vi consiglio, in ogni caso, comunque la pensiate, di leggere il libro di cui parliamo oggi, avendo invitatone l'autore. È un libro per la terza editore, il titolo è Il conto degli errori, Stato e debito pubblico in Italia. La domanda che vi faccio, perché mi interessa capire come la pensate, per intervenire se volete potete all'800 24 00 24, è: in questi ultimi due anni, mettiamo così, avete confermato il titolo del debito pubblico che avevate in portafoglio, quelli italiani? Ne avete presi di più? Ne avete presi di meno? In questi anni, per essere chiari, stiamo tornando a una quota di debito pubblico italiano nelle mani degli intermediari italiani, famiglie e banche, rispetto ad anni precedenti in cui la quota maggioritaria del debito pubblico, dello stock di debito pubblico esistente italiano, era nelle mani di intermediari e investitori internazionali. Siamo tornati a questo. Da una parte io vi chiedo se vi fidate davvero, vi fidate perché rimarrebbero espressi in euro? Beh, non credo, come ovvio. C'è chi scrive che infatti andrebbero ridenominati in lire, e così via. Allora la mia domanda è: vi fidate e mantenete la rotta sugli investimenti dei titoli del debito pubblico oppure no? E per quale ragioni? Sia che la vostra risposta sia sì, sia la vostra risposta sia no. Ecco perché secondo me è molto utile il libro di cui parleremo con l'autore. L'autore è il professor Leonida Tedoldi, che insegna storia delle istituzioni politiche e storia delle istituzioni internazionali all'Università di Verona, autore appunto di questo libro, Il conto degli errori, Stato e debito pubblico in Italia. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a lei, Oscar Giannino, a tutti i radioascoltatori, buon pomeriggio. Allora, perché secondo me questo libro vi è utile? Perché passa in rassegna, sono 160 paginette che si leggono d'un fiato, anche se è un libro di storia scritto da uno storico, quindi fitto di bibliografia, approfondimenti, autori citati per le diverse tesi, che però passa in rassegna dagli anni 60 in avanti l'evoluzione del debito pubblico e della spesa in deficit del nostro paese che lo alimenta, dandone una lettura politica rispetto agli equilibri politici che nei diversi decenni hanno dato interpretazioni diverse dalla politica economica, che hanno costruito i tre grandi cicli storici dell'aumento della spesa pubblica italiana. Una spesa pubblica italiana che era praticamente scesa quasi sotto il 30%, che era sotto il 30% del PIL, un debito pubblico italiano che era sotto il 30% del PIL fino agli anni 60, e che poi attraverso questi tre grandi cicli per ragioni diverse di politica interna e di congiuntura internazionale, vede la spesa pubblica, il primo ciclo negli anni 70, poi negli anni 80, poi negli anni 90, toccare fino a un massimo, questo è del 95, a metà degli anni 90, del 58% di PIL in un anno, adesso siamo al 51 e rotti nel 2014, e vedono il debito pubblico anch'esso salire dal 30% dove stava nell'Italia del boom grazie agli aiuti internazionali, alla nostra ottimo successo sui mercati internazionali e così via, eravamo un late comer, quindi a basso prezzo più che ad elevate tecnologie, ma dal 30% lo porta poi a crescere fino a dove è arrivato, e ancor più pensate che negli anni 70, anzi nel 1970, il debito pubblico italiano era inferiore al 38% del PIL, per passare nel 1995 al 124% rotti del PIL. Negli anni, nel 1970, il nostro debito pubblico sotto il 38% era in media con quello dei paesi OCSE avanzati, esattamente 38,9, anzi ne avevano un po' più di noi, e nel 1995 loro ne avevano 50 punti meno di noi. Questa era la grande differenza, per così dire, cioè noi abbiamo avuto un debito pubblico superiore al 60% del PIL in 111 anni su 150 di storia unitaria, e addirittura superiore al 100% del PIL in 56 anni su 150 di storia unitaria. Ma il motivo molto interessante è non solo la ricostruzione che il professor Tedoldi fa di questi tre grandi cicli della spesa pubblica, individuando e ricordando le responsabilità dei diversi governi, dalla Democrazia Cristiana alla fine del pentapartito, i governi tecnici e poi il ventennio della Seconda Repubblica, perché si arriva fino alla crisi finanziaria del 2008. La cosa molto interessante che spiega la domanda perché vi ho fatto, fine della mia introduzione, è quella di darvi degli strumenti per ricordare e capire bene quanto il debito pubblico italiano sia stato uno strumento essenziale, basilare, attraverso cui la politica ha costruito consenso e ha dato un mucchio di redditi agli italiani. E quindi è stato uno strumento molto popolare, che secondo me spiega perché nella testa di molti di voi l'idea di tornare a un debito pubblico e dire tutto sommato non vi dispiaccia, non vi dispiaccia e vi faccia dimenticare però tutte le volte in cui ai tempi della liretta noi siamo andati col cappello in mano a chiedere gli aiuti internazionali, ci siamo andati nel 1974, ci siamo andati nel 1975, ci siamo andati nel 1977, ci siamo andati nel 1982, ci siamo andati nel 1992, quando dal Fondo Monetario, quando direttamente a Washington, quando direttamente alla Bundesbank mettendo le nostre garanzie in oro per avere prestiti, ma questo, diciamo così, ce lo siamo dimenticati. Il punto di fondo è che ci sono due grandi passaggi nella storia italiana che rendono il debito pubblico popolare e amato dagli italiani, perché quando c'è il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, cioè quando la Banca d'Italia non finanzia più autonomamente il deficit italiano, non lo monetizza, allora a quel punto non è più la Banca d'Italia e le banche pubbliche a detenere il più del debito pubblico italiano, ma iniziano a diventare le famiglie, e questa è una cosa che avviene negli anni 80, perché il divorzio è 80-81, e negli anni 80 gli italiani scoprono la meraviglia dei bot e diventano insieme alle banche italiane i titolari della maggior parte del debito pubblico. Debito pubblico che li arricchisce, perché con l'inflazione a doppia cifra negli anni 80 l'effetto ricchezza, tuttavia di rendimenti molto elevati, è un bel blocco sociale che viene alimentato dallo Stato. Attualmente negli anni 90 questo meccanismo si ingrippa, perché non si può stare con l'inflazione a doppia cifra per troppo tempo, perché diventa un circuito che si autoalimenta. A quel punto cambia un'altra cosa, perché la politica italiana dà l'esenzione della ritenuta d'acconto anche agli intermediari esteri che prendono il debito, e lì invece cresce nel 2000 sempre di più poi la quota di debito pubblico nelle mani estere. Adesso siamo a una terza fase diversa, in cui è tornata la quota degli intermediari italiani, ma la domanda è la premessa per poi fare una bella patrimoniale tenendoci negli effetti in casa, e quindi per diminuirne gli effetti esteri, oppure no? Per questo vi ho chiesto, voi vi fidate o meno? Ecco, questa è la mia sintesi, ma il libro è molto molto interessante, e io mi scuso con l'autore, il professor Tedoldi, se naturalmente in questa sintesi cortissima ne ho forzato un po' personalmente la mia interpretazione, colpa mia. Detto questo, professore, siccome dica lei, ho sbagliato io a identificare nel rapporto tra italiani come risparmiatori, elettori eccetera e la politica un filo rosso anche di questa sua lettura che propone perché il debito pubblico è così elevato rispetto agli altri paesi? No, no, anzi io la ringrazio molto di questa sua introduzione, anzi recensione molto esaustiva, devo dire, avrei poche considerazioni da fare. Figuriamoci. In realtà sì, lei ha toccato diciamo il cuore del lavoro, nel senso che gran parte della mia ricerca ruota intorno a questo tema, cioè dal rapporto tra l'uso politico, perché in realtà il mio lavoro è centrato su questo grande tema, cioè l'uso politico del debito pubblico da parte del governo, ma che poi naturalmente si irradia nello Stato e che pervade sotterraneamente anche, forse anche non troppo sotterraneamente tutto il lavoro, e questo filo rosso, per citarla immediatamente, con la società. Questo diciamo approccio è presente anche nell'introduzione, nella non breve introduzione, dove appunto affermo immediatamente, scoprendo un poco, come si dice, l'assassino, questo rapporto per me tra istituzioni politiche, tra Stato, governi e coloro che gestiscono, diciamo così, per brevità, il potere politico e la società è molto forte per quanto riguarda, almeno questa è la mia analisi, per quanto riguarda proprio lo strumento debito pubblico, che in Italia è effettivamente ha una sua caratteristica, diciamo, non solo a livello europeo, ma direi anche a livello occidentale, cioè l'idea che lo strumento debito pubblico, il mantenimento di un certo tipo di livello debito pubblico sia anche uno strumento di crescita, e crescita non solo economica ma della società nel suo complesso, e quindi si trasformi, si traduca anche in in consenso politico, perché questo è un altro grande tema, è in credo sia il cuore del problema e del mantenimento dei livelli di cui peraltro ha dato conto puntualmente nell'introduzione anche lei, del debito pubblico italiano, che passa dalla fine degli anni 70 e ancora all'interno di coordinate possibili e gestibili, in poco meno di 10 anni diventa davvero una sorta di mostro quasi ingestibile. Eppure questo, forse, professore, mi dica lei la sua opinione, perché questo lei nel libro giustamente è un libro di storia e quindi si guarda dall'esprimere opinioni sull'oggi, perché ripeto è un libro che arriva al 2008, ma questo però forse ci può aiutare a capire perché tutto sommato in moltissimi italiani ci sia una nostalgia per gli anni 80, cioè gli anni 80 in cui l'effetto ricchezza, sommando a rendimenti elevati un'inflazione elevatissima provocata dal debito pubblico che era potentemente presente come strumento additivo dei redditi delle famiglie italiane, tutto sommato li faccia rimanere nostalgici di uno Stato che si indebita ma gli dà un mucchio di soldi di interessi come cedole dei titoli del debito pubblico. Cioè, in altre parole, lei in introduzione richiama una definizione di Maria Rubini che dice: debito pubblico è un'allarme finanziaria di distruzione di massa. Gli italiani non l'hanno vissuta così. Diciamo che hanno cominciato a pensare che fosse così grosso modo alla fine degli anni 90, credo. È vero quello che dice lei, perché l'attrattiva dei titoli di debito pubblico dello Stato, secondo me, credo, e ho tentato anche un poco di dimostrarlo, è troppo forte per quello che io ho definito, io ho ripreso in realtà un noto sociologo tedesco, ma insomma il cosiddetto popolo dello Stato, sì. Quindi coloro che investono sui titoli di Stato, da una parte, dall'altra parte dello Stato, perché chiaramente il debito pubblico verrà pagato ovviamente non né dai politici, neppure da coloro che ne traggono ovviamente benefici, ma dalle generazioni future. Quindi c'è una sorta di questione anche di fondo psicologica non solo per quanto riguarda le classi dirigenti o coloro che governano, ma anche coloro che sono governati da questo punto di vista. Quindi io lo trovo molto attrattivo, però con una serie di problemi che avvengono, credo, perché poi in realtà il lavoro è più sulla parte dello Stato, certo, che sulla parte diciamo del debito, non essendo io un economista, e quindi dicevo, questo è una questione anche psicologica che però si mantiene fin quando la società riesce a mantenerlo. Non so se sono stato sono chiaro. Il punto di rottura ovviamente a seconda delle diverse scuole economiche, inciso, alcuni sono convinti che il debito pubblico non vada ripagato, quindi alimenta solo con l'eccedere di reddito e per il resto non va pagato. Alcuni lo sostengono, e lo sostengono anche con una certa energia. Per me il debito pubblico va pagato e non ci sono pranzi gratis, per essere chiari. Detto tutto questo, il punto di rottura è quando poi i tassi di crescita di un paese nominali, compresa l'inflazione, che però non va tenuta elevata, perché l'inflazione è una tassa sui poveri, che arricchisce solo gli indebitati e i ricchi e invece colpisce di più i poveri, però quando il tasso di crescita nominale per tot anni è inferiore rispetto al tasso di remunerazione degli interessi del debito pubblico, quindi al tasso di crescita del debito, ecco che lì diventano cavoli amari i mercati aperti, cavoli amari. Ecco perché c'è la repressione finanziaria, e dirvi, cari italiani, è meglio che riprendete voi i titoli invece degli stranieri, perché così, se poi bisogna fare qualche intervento straordinario, ce la vediamo tra noi. Questo rischio esiste, in altre parole, lo vedremo tra poche settimane col debito greco. Vedremo, debito greco è nelle condizioni però di essere nelle mani degli altri stati europei, quindi loro, con l'abbattimento che hanno avuto della quota di debito negli intermediari privati nel 2012, che abbiamo tutti finanziato in Europa, si sono messi con le spalle coperte, perché di loro debito ne hanno pochissimo in realtà i greci, e noi ne abbiamo tantissimo invece nelle nostre mani. Strade, torniamo tra 60 secondi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo parlando di un libro che io davvero vi suggerisco di leggere. Il titolo è Il conto degli errori, Stato e debito pubblico in Italia. La Terza è l'editore, e con noi l'autore, il professor Leonida Tedoldi, che insegna storia delle istituzioni politiche e storia delle istituzioni internazionali all'Università di Verona. Vi avevo fatto una domanda: vi fidate? Avete titoli pubblici in tasca? L'avete preso di più o di meno? Sentiamo rapidamente due ascoltatori con Mario da Roma. Mario. Buonasera. Io desidererei che nel libro ci fosse esplicitata una storia dell'evasione fiscale, perché è fondamentale rispetto al debito pubblico. Nel 1970 è partita il nuovo regime fiscale che ha diviso gli italiani fra coloro che presentano le dichiarazioni e coloro che subiscono il debito pubblico, come me, che ho lavorato 45 anni e ho pagato sempre fino all'ultima lira come lavoratore dipendente, adesso ho pensionato. Mentre io l'anno scorso abbiamo fatto la ristrutturazione dello stabile di Roma, nella quale noi abitiamo, e l'imprenditore ci ha scontato l'IVA. Noi non abbiamo pagato l'IVA. Chiaro? Chiarissimo. Allora le rispondo subito, Mario. Se legge il libro, lo legga, vedrà che è documentato per ogni sviluppo, per ogni decennio successivo, il ritardo che c'è rispetto all'andamento della spesa pubblica, esattamente, del gettito fiscale. Noi abbiamo avuto lunghi decenni in cui la spesa pubblica cresceva, e addirittura rispetto alla spesa pubblica il gettito fiscale copriva poco più del 50%, e tutto il resto era debito che si aggiungeva, debito che all'epoca era garantito, ripeto, dalla Banca d'Italia e dalle banche pubbliche soprattutto, però cresceva fino a tassi del 12-15, addirittura del 18% l'anno, per essere chiari, proprio per quello che dice lei. E vedrà che si parla, nel 73-74, quando c'è la riforma fiscale, anche degli effetti negli anni successivi, che non portano da un aumento di gettito. Ci sarà un aumento di gettito che a quel punto sale, soprattutto negli anni della crisi italiana, cioè negli ultimi anni, dagli anni 90 in poi, dal 92 in poi. Ma prima la politica ha avuto il piedino bello alto, ma anche questo era consenso politico. E come? Marco da Milano, prego Marco. Buongiorno, rispondo subito. Io di titoli di Stato non ne ho quasi più. Ma soprattutto per un problema di rendimenti. Ah, ecco, infatti. Perché ci sono altre cose che mi pare giusto rendono un po' di più. Posso dire una cosa, certo, rapidissima? mi compro quel libro di corsa perché trovo l'argomento interessantissimo. Mi chiedo se l'autore ha anche per caso un po' parlato delle culture, delle ideologie politiche di cui... E facciamogli rispondere, perché... facciamogli rispondere subito, professor Tedoldi. Delle culture, ma sì, ci sono tanti temi nel libro, forse troppi da un certo punto di vista. Sì, certo, sì, io ho già notato anche alcuni interventi sui blog rispetto al mio libro. Sì, certo, il debito pubblico è uno dei più alti strumenti della politica, come dire, occidentale. Sì, ho toccato anche i profili, come dire, politico-culturali delle politiche economiche. Sono stato un po' involuto in questa risposta. Sì, certo, anche i rapporti tra maggioranza e opposizione, negli anni Ottanta anche di alcuni errori fatti o portati avanti dall'opposizione. No? Nel libro si tiene conto anche di un certo atteggiamento del Partito Comunista, che secondo me non ha rilevato alcuni problemi intorno al debito pubblico e soprattutto alla crescita del debito, esatto, del debito pubblico. Esatto, delle conseguenze che avrebbe avuto. E lasciatemi dire anche, secondo me, che vale la pena di leggerlo, perché sull'analisi dei famosi governi tecnici, ma non solo quello Amato del 92 o quello Ciampi, ma anche Goria e così via, cose che sono fuori oramai dalla testa di molti, il libro del professor Tedoldi è rigoroso, cioè non fa sconti a nessuno sulla differenza tra ciò che ha annunciato quando quei governi nascevano e poi ciò che concretamente fece. Il titolo è Il conto degli errori. Leggetelo, compratelo, continuate con la 24. Appuntamento con me domani.